Italia in controluce. Buongiorno, buon pomeriggio, oggi è il 17 giugno e la seconda edizione di Italia in controluce, l'approfondimento della redazione di Radio 24 sulla cronaca italiana. Le storie di lavoratori dei call center diventano un libro che racconta anche situazioni fortunatamente positive. Il racconto di Simone Spezia. Buongiorno, il servizio clienti, sono Flavio, come posso aiutarla? Buongiorno signore, mi chiamo Ludovica e chiamo da parte di... Posso parlare della nuova offerta della nostra compagnia? Buonasera, sono Michele, in che cosa posso esserle utile? Simboli del precariato, dell'annullamento dei diritti, rappresentati spesso come luoghi delle nuove forme di schiavismo a malapena mitigate da uno stipendio o da fame. Ecco l'idea che l'Italia si è fatta dei call center. Un fondo di verità c'è, forse anche qualcosa di più, ma ci sono anche delle mosche bianche. Parte proprio da una di queste ultime il libro Call Center, Inferno o Paradiso, edito dal Diario del Lavoro. Tutto inizia con un racconto della giornalista Nunzia Penelope, andata in visita alla Vodafone. Ho trovato un quadro completamente diverso da quello che avevo letto e visto al cinema, ma anche di tutte le storie terribili di inferni, di call center che sono emersi in questi mesi e anni. Ho visto un posto, a parte molto gradevole esteticamente, ma questo forse è un dettaglio, dove ci sono persone molto appassionate del lavoro che fanno. Io ero molto sorpresa perché ho sempre pensato, anch'io come tutti, che il call center fosse l'ultimo girone dantesco dell'occupazione precaria, e invece loro mi hanno spiegato che si può anche lavorare in un call center facendo un lavoro appassionante, facendolo bene, facendo carriera e avendo anche degli stipendi, come loro mi hanno orgogliosamente detto, che sono superiori a quelli dei metalmeccanici, che mi sembra già un parametro interessante. Il punto è questo, certo, sul fronte dei diritti di chi ci lavora dentro, ma le aziende non fanno beneficenza. Il fatto che la gente sia motivata, che le condizioni siano discrete se non buone, che dunque un call center lavori bene, è un vantaggio soprattutto per loro. Poiché quello è un serbatoio occupazionale destinato a crescere nella società dei servizi, eccetera, e penso che bisognerebbe cominciare a prendere esempio da questo tipo di call center, cioè dove non solo si premia la professionalità ma si costruisce la professionalità, perché a quello è legato poi anche il risultato del fatturato di un'azienda, cioè chi lavora nel call center è il biglietto da visita verso l'esterno e verso i clienti, e io penso che le aziende serie non possano che andare in questa direzione, anche se ovviamente questo avrà dei costi, costo del lavoro, costo di formazione, di investimento sul personale molto più elevati di quelli che usano i giovani dei call center come carne da macello, usa e getta. Dall'inchiesta nascono le riflessioni, così il libro ospita interventi di sindacalisti come Susanna Camusso, esponenti di centrodestra come Giuliano Cazzola e di centrosinistra come l'ex ministro Damiano, tra gli altri anche Francesco Delzio, autore di un libro bello e fortunato, Generazione Tuareg, giovani, flessibili e felici. Siamo in una fase, soltanto due dati, 2 milioni di giovani net, cioè che non studiano, non lavorano e non fanno training professionale, è il più alto tasso di disoccupazione giovanile mai registrato nella storia, in cui abbiamo un disperato bisogno di entry level, di strumenti che riescano a far entrare i giovani nel circuito del mondo del lavoro. I call center possono essere questo, naturalmente i call center devono dare delle possibilità di crescita ai ragazzi che sono impiegati in essi, soprattutto perché essendo a contatto diretto continuo con il cliente, che è il vero patrimonio di tutte le aziende, i call center possono dare una notevolissima formazione sul campo ai ragazzi che sono impiegati nei call center stessi. È possibile quindi che nei prossimi anni le aziende sfruttino molto di più di quanto non facciano oggi questo patrimonio che gli addetti ai call center acquisiscono nel contatto quotidiano col cliente. Perché voi siete persone e fate un lavoro. La strada è però ancora lunga. L'audio che avete sentito è del film Tutta la vita davanti di Paolo Virzì, liberamente ispirato a Il mondo deve sapere, racconto della scrittrice Michela Murgia della vita di sfruttamento in un call center di una grande multinazionale. Murgia, che è anche lei tra le voci di questa raccolta di riflessioni. Io non ho visto call center che siano luoghi di formazione, devo essere sincera, la generazione che si affaccia al lavoro li vede ancora come luoghi transitori per sbarcare il lunario temporaneamente. È pur vero che il mito del posto fisso non è così mito più, però è anche vero che sarebbe bene che cambiando il mito del posto fisso restasse il mito dei diritti fissi. Io sono favorevole alla flessibilità, delle condizioni contrattuali, non del diritto. Mi sembra che questa confusione continui a generare mostri, sfruttamenti, la cronaca recente mi dà ragione. Purtroppo il call center narrato in questa inchiesta resta giustamente una mosca bianca. Non mi stupisce che ci siano call center mosche bianche laddove i contratti garantiscono i diritti. Il problema sono i posti, call center o no call center, dove queste tutele non esistono. Italia in controluce. Mariangela Melato, una delle attrici di cinema e teatro che meglio ha rappresentato la trasformazione del nostro paese tra gli anni 60 e gli anni 70. L'ha incontrata per Italia in controluce Daniela Binello. Ci vorrebbe una bella lettera ai giornali. Il mondo non si cambia con le lettere ai giornali. Chi ha il fazzoletto? Se lo metta sulla bocca. Dovreste andare là e buttare una bomba. Sono contro la violenza, il mio idolo è Gandhi. Guarda, ti avverto che mio figlio non crescerà come una pecora. Io ti avverto che se il mio lo vedo con un'arma in mano lo prendo a schiaffi. Ma prendi a schiaffi quelle che le fabbricano le armi. E il cemento. E questa è l'aria fresca che mi ha ordinato il professore. L'aria pura. Inquinatori, sfruttatori. E quando è che ti sentono? Ma anche con loro tubi, hai uno stile. E grida! Non voglio dare ai bambini una lezione di volgarità, siamo degli educatori. Ma è una lezione di ecologia. Sanguisughe! Egoisti! Ricchi! Ricchi non è un'offesa. Si vede che ignori la lotta di classe. Ricchi! Capitalisti! Ineducati! Buonasera. Da piccola voleva fare la ballerina e noi la ringraziamo per essere diventata l'attrice numero uno che conosciamo. Mariangela Melato, che abbiamo incontrato al Teatro Valle di Roma, dove ha portato Il dolore, un racconto di Marguerite Duras sull'Olocausto, è un'artista che non si sottrae dal dire ciò che pensa sull'importanza della memoria. Per cominciare, il male della nostra epoca, secondo me, in cui tutto è annebbiato dalla televisione, che è tutta rosa, che è tutta schifosa, che è tutta basata sulla mancanza di valori e soprattutto mancanza del ricordo, in questo periodo va alimentata, perché secondo me molte cose non diventerebbero così terrificanti se ci fosse il ricordo in noi, in tutti noi. Perché si tende a fare una vita richiusa nelle nostre piccole quattro mura, sperando di avere meno danni possibili, meno disagi possibili, meno lutti possibili, però nessuno pensa più al resto del mondo, che è travagliato e lo è stato in una maniera che è impossibile dimenticare, è incivile dimenticare. Ma fermarsi per riflettere, per sapere sempre più cose, fa male, secondo alcuni. Ogni tanto bisogna fermarsi a riflettere. Non si può sempre far finta che vada tutto bene, che sia tutto quella roba lì che vediamo in televisione o che ci propina un certo tipo di teatro schifoso. Ogni tanto fa bene anche dire: siamo a questo punto, come mai? Attenzione a dove andiamo. Nel nostro piccolo mondo non è che ci si chiede grandi cose, ci si chiede di ricordare. Ecco. L'abbiamo apprezzata anche al cinema e in televisione, ma è il teatro l'habitat di Mariangela Melato. Da qualche anno in qua dicono di lei che ha un caratterino perché decide quello che le va di fare. Sono una persona molto molto disponibile, molto apparentemente docilissima. In realtà so quello che voglio fare. Ma da un po' di anni è evidente che ho conquistato il diritto di scegliere le cose che voglio fare, no? Di dire questo no, questo sì, questo neanche morta, mi piacerebbe fare questo. Mi sembra di aver scelto sempre lo spettacolo che ci voleva in quel momento lì. Poi, forse è una mia convinzione, ma lasciatemela, perché ne ho una consapevolezza abbastanza misteriosa di questo. Non lo so perché, ma a un certo punto mi viene da dire: è il momento di fare questo. E proprio così l'ha Melato, rigorosa, spigolosa e fragile. Se non avessi questa fragilità mi annoierei a fare questo mestiere. Se dovessi dirmi: vabbè, l'ho già fatta, la so, chi se ne frega, vado. Non avrei la gioia di dire: sono miei, ci stanno, hanno reagito. Si va verso una conquista che è folgorante solo se l'hai veramente voluta. Daniele Biacchessi vi saluta per la seconda edizione di Italia in Controluce. Sul nostro sito www.radio24.it trovate tutte le puntate, tutte le interviste. Per comunicare con noi, Radio 24 Italia in Controluce, il gruppo su Facebook e l'email controluce@radio24.it. Alle 6.30 di domani con altre storie su Radio 24.